Italia in controluce. Torna la cronaca italiana e i reportage su Radio 24 Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi un numero speciale dedicato agli incidenti nei luoghi di lavoro. Il tema della sicurezza è stato oggetto in questi ultimi anni di ripetuti appelli del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nonostante questo si continua a morire mentre si lavora. Cosa si è fatto? Cosa si deve ancora fare? Di chi sono le responsabilità? Il racconto di Raffaella Calandra. Cambiato poco e penso alle mogli, alle mamme, ai bimbi che lasciano e continuo a vedere che in Italia siamo sempre quelli che hanno più percentuali di morti sul lavoro. Ci sarà un motivo, tanta voglia di guadagnare e poco da spendere per la sicurezza. Persone hanno bisogno di lavorare, lavorano in tutte le condizioni. Per quando fai il bravo a scuola? Ciao papà. Quando vede gli spot in TV sulla sicurezza sul lavoro, gli occhi di Tina si arrossano e per un momento un'ombra le torna tra i pensieri mentre corre da una parte all'altra, richiamata dalle richieste dei figli. Ciascuno ha i propri compiti, i giochi, i capricci e reclamano attenzioni. E Tina corre e fa tutto da sola, come le tante vedove del lavoro in Italia. Il marito, Antonio Schiavone, 36 anni, era uno dei 7 operai morti nell'inferno di fiamme acciaio della ThyssenKrupp di Torino. Era il 6 dicembre 2007, 3 anni dopo l'orrore e la commozione, dopo gli appelli del capo dello Stato e dopo la stretta sulle sanzioni con l'introduzione anche del carcere per chi viola le norme sulla sicurezza, l'Italia ha pianto ancora molte altre vittime sul lavoro. Tra le ultime, i 3 operai morti asfissiati nel silos di Capua, i 2 cinesi arsi nell'incendio del loro laboratorio nel milanese. Aspetto che comunque venga fatta giustizia e mi sembra che siamo sulla buona strada. Se ne è parlato tanto perché servisse anche agli altri, però alla fine siamo sempre come prima. E le cifre sono terribili. Nel 2009 gli infortuni furono 790.000, 1050 quelli mortali. Dati che non contemplano neanche tutto il mondo del sommerso. Dati terribili nonostante le cifre dimostrino, notano alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti bianche, come ci sia stato pure un miglioramento, sia pur leggero. A presiedere la Commissione dalla sua istituzione 5 anni fa c'è il senatore Oreste Tofani, PDL. A fine ottobre presenteranno una relazione intermedia insieme ad una proposta concreta che anticipa a Radio 24. Noi non escludiamo di fare in modo che le spese relative a tutte le attività di formazione e di contrasto agli infortuni alla salute sui posti di lavoro che possa essere detassate. Detassare le spese per la formazione e la prevenzione sulla sicurezza, una proposta che si inserisce in quella che il presidente Tofani ha definito la sua guerra. La guerra contro quei risparmi che si traducono in minor sicurezza, dice, a cominciare dal cosiddetto massimo ribasso. Capiamo che ci sono anche dei condizionamenti comunitari su questo tema, ma noi stiamo lottando perché è impossibile operare con il massimo ribasso, perché noi arriviamo a ribassi del 60, 50, forse anche di più di quello che è il costo dell'opera, tenendo conto che poi i parametri sono, diciamo, convenzionati, addirittura per le opere sono pubblici, sono regionali che vengono aggiornati. Quindi questo massimo ribasso è uno dei primi problemi da affrontare e da risolvere. E il discorso del subappalto, perché pur prevedendo l'attuale normativa che sia nel ribasso che nei subappalti non si debba assolutamente tagliare nulla per quanto riguarda le cifre investite per la sicurezza, ma questo è tutto poi da verificare, perché per tornare al caso di Capua c'è una polemica se era giusto adoperare anche l'azoto o non era giusto, tenendo conto che l'azoto costa 10 volte meno dell'elio. Quindi cioè se il principio del risparmio si trasforma in una riduzione drastica della sicurezza, quindi in aumento del pericolo. Il nostro parere produce questo effetto. Il ministro Sacconi, che abbiamo udito l'ultima volta, ci ha confermato la sua disponibilità ed è stato istituito un tavolo che si occupi essenzialmente di questo problema degli appalti con i ribassi, il massimo ribasso, ma anche, diciamo, il subappalto diffuso. Tutte le buone intenzioni si scontrano poi con delle esigenze di tipo economico delle imprese. Noi dovremmo creare dei punteggi per le imprese. Dovremmo in qualche modo, standoci questa direttiva comunitaria, avere meccanismi tali che il massimo ribasso o comunque il subappalto vengono in qualche modo garantiti da imprese che hanno caratteristiche tali che danno maggiori garanzie di altre imprese. Una forma di certificazione come avviene per le imprese per l'antimafia? Sì, potrebbe andare anche questo. C'è già un quadro chiaro, indubbiamente su quello va approfondito e va migliorato. Secondo, io non credo che ci sia questo senso sfrenato a risparmiare, però è pure vero che, per esempio, se pensiamo a un altro grande dramma che è stato quella della ThyssenKrupp di Torino, da più di un anno era diciamo in via di chiusura, tanto per esempio che mancava una squadra antincendio all'interno. E gravi carenze ha denunciato anche dopo il sopralluogo la settimana scorsa a Capua nello stabilimento chimico farmaceutico della DSM. Sono state gravissime inadempienze. Sembra che si sia determinato questo, che all'interno di questo contenitore era stato iniettato l'elio e l'azoto. Di conseguenza, nelle aperture e nella non bonifica del sito stesso, ci si è trovati di fronte all'assenza di ossigeno. Quindi questi operai che sono andati per fare lavori, diciamo, di manutenzione, sono entrati in un ambiente pressoché privo d'ossigeno e di fatto ne ha causato immediatamente la morte. Questo significa che chi aveva le responsabilità di garantire la sicurezza del luogo prima delle altre attività di carattere ordinario, indubbiamente non l'ha fatto. Intanto c'è un altro problema, dove lavorano più soggetti, perché in quella circostanza vi erano più ditte che hanno concorso a questa tipologia di lavoro. E probabilmente non c'è una corretta informazione. Secondo, credo che sia arrivato il momento, una volta per tutte, di dire a tutti: quando si va in una cisterna bisogna andare con la maschera. Gli incidenti nelle cisterne sono tra quelli drammaticamente ricorrenti? No, non sono i più ricorrenti, perché io, se vado a memoria, ma credo negli ultimi anni abbiamo avuto, credo, 20 o 25 decessi. Sono i più eclatanti, noi abbiamo quotidianamente morti, in modo particolare nell'edilizia, che sono i più esposti, nell'industria e anche in agricoltura. Non condivide Tofani l'idea di molti magistrati della creazione di una procura nazionale sul lavoro, come per l'antimafia, ma alle procure generali lui ha scritto, prendendo spunto da casi di incidenti mortali tra dipendenti delle poste durante i viaggi. La sicurezza sul lavoro fa pure risparmiare le imprese, è la convinzione invece ripetuta dai magistrati che indagano sulle morti bianche, sulla base anche solo di una fredda contabilità, dove da una parte ci sono gli investimenti per la sicurezza, dall'altra i costi di processi, sanzioni e risarcimenti affrontati dalle società. Milionario quello della ThyssenKrupp, che ancor prima del processo ha risarcito con circa 12 milioni in totale i diretti congiunti delle 7 vittime, che così poi non si sono costituiti parte civile nel processo, come ci ricorda uno degli avvocati, Antonio Mencobello. I congiunti degli operai deceduti in quel famoso 6 dicembre sono stati tutti integralmente risarciti, siccome erano stati praticamente liquidate delle somme ben maggiori di quelle che normalmente vengono riconosciute in altri incidenti sul lavoro anche mortali. C'era stata tutta una polemica, si parlava di morti di serie A, morti di serie B, si aggirava intorno ai 2 milioni e qualcosa per ogni famiglia. Si può dire che rappresenta un po' un'eccezione, che forse la gravità del fatto ha fatto sì che si sia, prima della conclusione del primo grado del processo, arrivati ad un accordo tra le parti per i risarcimenti? Assolutamente, questa è stata considerata così. Nessun altro caso è mai stata risarcita e sarà risarcita una tale somma a titolo risarcitorio. Ma al di là della somma, anche sui tempi, cioè sul fatto che siano stati risarciti prima di una sentenza. Vero, anche sui tempi, è vero. Il fatto successe a dicembre, la liquidazione dei danni è avvenuta subito dopo a luglio. C'è stata proprio una marea di persone che hanno chiesto la costituzione di parte civile, molte delle quali sono state ammesse. Dai compagni di turno ai sindacati, da associazioni agli enti locali, sono comunque un'ottantina le parti civili che ora aspettano la conclusione del primo grado. Il 5 ottobre inizierà la requisitoria dei pubblici ministeri e le vedove della ThyssenKrupp sanno già, come ci dice Tina, che si ritroveranno quel giorno tutte insieme in aula. Essendo anche vicini al cimitero ci vediamo anche là, quindi ormai sono due posti dove ci vediamo spesso, insomma, ci facciamo forza, insomma, il dolore c'è sempre. Era la seconda edizione Italia in Controluce. Vi ricordo il nostro sito dove potete scaricare questa e tutte le puntate di Italia in Controluce, radio24.it, il nostro gruppo su Facebook che continua a crescere e salire, Radio 24 Italia in Controluce, dove potete lasciare tutti i vostri temi, quello che volete ascoltare nei prossimi programmi. Controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.